America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. There's nothing more important to our country's future than the education we give our kids. And there's no one more important to that education than the person in the front of the classroom. Teachers matter. Barack Obama che parla di educazione, l'educazione è uno dei temi centrali. Ecco, la pubblica istruzione americana è di dimensioni enormi, pensate che ci sono 55 milioni di studenti in America. Il settore, stiamo parlando di un vero e proprio settore, ha una sua dimensione privata con un giro d'affari di decine e decine di miliardi di dollari. Ci sono almeno 53.000 aziende private che operano nel settore dell'educazione, la preparazione per i test, dei corsi privati. L'altro giorno ho incontrato Benno Schmidt, che è stato il presidente di Yale, e ha detto che il futuro di un paese come l'America, ma è un messaggio importante per noi perché si parla del futuro di un paese industrializzato, avanzato, è nel settore che lui ama definire della conoscenza. Però ci sono dei problemi nei college americani, e ci sono dei problemi anche a livello di relazioni interpersonali. Ecco, io di questa tematica, non tanto del futuro del settore della conoscenza, ma di alcuni dei problemi pragmatici, voglio invece discutere con il mio ospite, il professor Ernesto Caffo, fondatore di Telefono Azzurro, che si trova in America proprio per avviare degli studi e dei progetti che riguardano i college americani. Buongiorno, professore. Buongiorno. Allora, abbiamo visto che c'è un quadro, insomma, negli Stati Uniti così piuttosto instabile per quel che riguarda la protezione dei diritti delle donne, come abbiamo visto nel caso di Thurl Aiken, che continua a correre per il seggio senatoriale del Missouri, il quale a un certo punto un repubblicano se ne viene fuori e dice: ma dice le donne, inutile che dite che ci sono violenze sessuali, che poi le donne, se sono oggetto di stupro, se vogliono, riescono a non restare incinta. Delle robe che lasciano sbalorditi, o sbaglio? No, certamente, ci sono delle dichiarazioni e anche delle politiche in America che danno il senso che il tema dei diritti non è un tema maturo su certi aspetti. Da una parte, io che mi occupo dei diritti dell'infanzia mi rendo conto che, ad esempio, al di là del fatto che gli Stati Uniti non hanno firmato la Convenzione dei diritti dell'infanzia, unico paese al mondo, anche perché questo impegno per i diritti vuol dire anche cambiare le politiche, vuol dire investire di più sulle persone che devono essere tutelate, aiutate, supportate. Questa è una cosa che mi interessa molto, perché noi abbiamo delle esperienze di eccellenza nel non profit, nelle fondazioni, in Italia, che spesso fanno fatica a venire qui. Lei è una fondazione americana, lei è riuscito a portare questo suo messaggio. Perché? E soprattutto, che cosa trova nell'America che poi è pronta a recepire questo messaggio e magari a investire, come diceva lei? Ma da una parte occorre avere dei progetti molto precisi, molto concreti. Occorre capire che il mondo americano vuole avere risposte immediate e vuole anche cercare di verificare che le cose in qualche modo dichiarate vengono in qualche modo sviluppate. E il mondo americano guarda a progetti nuovi, innovativi, e questo vuol dire anche essere molto attenti a quello che sta avvenendo in America. L'America è un paese con grandi cambiamenti, devo dire, le nuove tecnologie stanno cambiando moltissimo anche tutto il tema della tutela dell'infanzia. Oggi la gran parte dei problemi dei ragazzi può avvenire anche come rischio, come situazioni di abuso attraverso la rete. E l'America vuole progetti che guardino queste nuove tematiche. Sta guardando moltissimo ai progetti che possono svilupparsi, ad esempio, per i giovani adolescenti, post-adolescenti nel mondo dei college, perché si rende conto che molte volte si è data troppa autonomia ai ragazzi senza tutelarli sufficientemente. Ecco, due tematiche, il mondo dei college e la rete. Cominciamo dalla rete, perché è un problema che credo interessi moltissimo i nostri ascoltatori. Sappiamo di giovanissimi, di adolescenti, che di nascosto dai genitori basta che mettono una videocamera e poi fanno degli spogliarelli o qualcosa di peggio, ricevono del denaro. Ecco, come si può controllare questo problema, questa piaga, questo rischio che ormai è, insomma, è piuttosto serio? Ma da una parte occorre lavorare con le aziende, come noi facciamo con Facebook e con Google, per riuscire in qualche modo a condividere dei percorsi di filtri, anche se vogliamo di maggiore società aziendale, per evitare di dare ai ragazzi un accesso immediato a certi scambi di materiale. D'altra parte occorre formare gli adulti, cosa che è difficile molte volte, ad essere più presenti attorno alle tematiche dei ragazzi nella rete. Questo vuol dire parlare con loro, condividere con loro certi problemi, soprattutto parlare con loro del problema della privacy, perché i ragazzi mettono in rete le loro immagini. Il sexting è un fenomeno molto comune, ma perché i ragazzi non si rendono conto delle conseguenze che può avere un loro video sulla rete. Questo vuol dire anche molte volte attivare anche delle misure di intervento per togliere questo materiale immediatamente dalla rete, cosa che stanno facendo le grandi aziende. Quelli che dicono ma questa è censura? Questo è sicuramente un problema che va affrontato con chiarezza. Dobbiamo tutelare le fasce deboli soprattutto, ma dare anche il senso di socialità ai ragazzi di non usare in modo improprio la rete. Quindi non c'è una contraddizione col primo emendamento della Costituzione americana che tutela la libertà di espressione? Sì, ma la libertà di espressione ha dei limiti nel momento stesso in cui ci sono degli altri soggetti che diventano vittime di situazioni improprie. Ecco, e qui arriviamo al college, perché lei in qualche modo sta entrato in un, diciamo, settore demografico che è di ragazzi più grandi, e quindi sta cercando di aiutare l'America a risolvere alcuni dei problemi che ci sono in questi ragazzi che entrano all'università. Il college, diciamo, sono i primi anni dell'università. Ecco, ci dia un quadro della situazione nei college americani per i giovani. Da una parte va detto che io sono entrato in questa ricerca che è guidata da Harvard perché ci sono resi conto che nel percorso formativo dei ragazzi esistevano dei problemi che nessuno voleva in qualche modo vedere. Negli Stati Uniti ci si occupava degli spazi sportivi per i ragazzi, delle loro prestazioni intellettive, e molto meno invece dell'attività che molte volte i ragazzi possono fare, che possono anche avere degli elementi tossici. Da una parte appunto situazioni di violenza, di abuso, dating e situazioni che in qualche modo può andare fuori controllo, così come l'abuso di alcolici, l'abuso di sostanze. Tra l'altro il college spinge molto alla prestazione intellettiva, molte volte portata a dei livelli particolarmente elevati e quindi di stress profondo per i ragazzi. Questo ha fatto aumentare le malattie mentali, ragazzi che tentano il suicidio è aumentato tantissimo nei college negli ultimi anni. Allora io credo che anche in questo caso il condividere queste ricerche anche con quelle europee che ne stiamo facendo università ci permette di vedere come il modello americano va in qualche modo rivisto, così come d'altra parte i modelli europei. Che consiglio può dare ai nostri ascoltatori che possono sospettare ma non sono sicuri se magari un ragazzo all'università, magari in un'altra città, può essere esposto a situazioni di disagio, oppure un ragazzino a casa, di controllare la rete, di seguirli? Qual è il consiglio che lei può dare? Da una parte occorre avere un accesso al computer del proprio figlio, soprattutto cercare di conoscere bene i contatti che ha, il materiale che scambia. La seconda cosa è che occorre avere la possibilità di parlare di più con i ragazzi che sono al college dei loro problemi personali. E la terza cosa è quella di occorre sicuramente da parte di tutti pensare che questa facilità è delicatissima e occorre sicuramente essere vicino a loro quando questi problemi vengono alla luce. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. I Rage Against the Machine starebbero segretamente lavorando a un nuovo album. Si tratterebbe del primo disco dal 2000, quando la band si sciolse dopo l'abbandono di Zach Della Rocha. E dunque a loro, nella speranza che davvero ci sia questo nuovo disco, dedichiamo la canzone del giorno dei Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.